Visori quiero ti, pero ti quica. Dani sigaba ni ridani sare cabe. Vico yo sori du su cabine, risigne casini, ora más esa cabe. Visori quiero ti, pero ti quica. Dani sigaba ni ridani sare cabe. Pico io sorrido su cabini, risigne e casini, ora ma se sa cave. Buppure, la signa bidò, la guaghetta nere ghignato. Buppure, la signa bidò, la guaghetta nere ghignato. Sigagueta rigiba y te sela, ora más se tira genda sela, los payuini sela malibitigesa, para Cuba ora maveda. Sigagueta rigiba y te sela, ora más se tira genda sela, los payuini sela malibitigesa. Para Cuba ora ma veda, buppure, la signa bidò, la guaghetta nere ghignato. Buppure, la signa bidò, la guaghetta nere ghignato. Virongo, virongo, titella yo, vira scubi gianzana ti chissu yo, vira che la manaca ti vangu rasuba ti rangu caio che tagu. Ti virongo, virongo, titella yo, vira scubi gianzana ti chissu yo, vira che la manaca ti vangu rasuba ti rangu caio che tagu. Buppure, la signa bidò, la guaghetta nere ghignato. Buppure, la signa bidò, la guaghetta nere ghignato.